bestiale. Di stress, vivo in ritardo di un'ora, a correre come Leclerc, senza sapere per cosa. Dovrei stare più tempo con te, o scrivermi un corso di yoga, magari non fare niente, ma farlo bene, wow. Ma tu voglia di dance all night, forse non ce l'hai, tu non cerchi guai d'estate. Io metto un disco in un jukebox. Bestiale.